penso che siano i cittadini che rispondono nelle urne, che è la risposta migliore, e che votano se stessi fondamentalmente, perché comunque hanno voglia di realmente di riprendersi in mano un po' la gestione, partendo dai comuni, che è proprio la propria casa, il posto più vicino alle problematiche della vita di tutti i giorni, e quindi si costituiscono in liste civiche che si presentano, alcune sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, e provano quindi a dare uno scossone alla loro città, che purtroppo da Parma, ma io in Piemonte citerei Alessandria, che è praticamente in dissesto finanziario, o anche la stessa Torino, che insomma è quasi lì vicina, che provano quindi a dare un segnale forte a tutto il paese, insomma, che la politica si può fare senza strutture partitiche, quindi tutta la burocrazia, tutte le gerarchie, e soprattutto, ribadiamolo, senza soldi.